Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a tutti. È raro, francamente, vedere questa sala piena per la presentazione di un libro. Questo non è un libro qualunque, evidentemente. E l'autore di questo libro non sono evidentemente autori qualunque, sono persone a cui evidentemente, le cui storie evidentemente appassionano molto. Siamo molto contenti con le biblioteche civiche che grazie alla collaborazione con la libreria L'Angolo Manzoni si sia potuta creare in questa occasione in biblioteca. Questa, per chi non la conoscesse, c'è qualcuno di voi che non è mai venuto in biblioteca civica centrale? Qualcuno? Vabbè, devo fare la domanda al contrario. Chi è già venuto in biblioteca? Vabbè, insomma, una percentuale di spazio. La Biblioteca Civica Centrale, in effetti, nel 2019 il servizio biblioteche, su iniziativa, su impulso dell'editore Pomba, nacque 150 anni, oramai 153 anni fa. Infatti quel cartello là dietro ricorda, da 150 anni facciamo conoscenza, proprio la celebrazione dei 150 anni del servizio, che nacque con quella che oggi non è più quella là, ma è la Biblioteca Civica Centrale del Servizio Biblioteche della città di Torino, e quindi da allora ha, come in un'esplorazione dello spazio non cosmico ma urbano, si è allargato progressivamente, perché le biblioteche civiche sono biblioteche di pubblica lettura, e quindi potendo, perché ovviamente si richiede risorse di ogni tipo, organizzative, finanziarie, umane e di visione. Quindi questo sistema cresce pian piano per andare vicino a dove le biblioteche, da dove le persone abitano. Ad oggi il servizio biblioteca è costituito da 17 sedi, l'ultima è una biblioteca riaperta, la Biblioteca Civica Carluccio in Via Monti Ortigara. Non è sempre facile riaprire quando si è chiuso per motivi di manutenzione straordinaria. Ci sarà nel prossimo futuro, con il mitico PNRR, una riqualificazione delle biblioteche, con anche la nuova sede della Biblioteca Civica Centrale a Torino Esposizioni. Quindi non sarà più qua, però tra qualche anno, insomma, non, di sicuro non domani. Quindi non sarà più nel cuore, diciamo, della città, sarà nel cuore del Parco del Valentino. Perché le biblioteche sono vive, crescono, e non solo perché aumentano i libri, ma anche perché aumentano i servizi. Quindi i servizi che si pensavano 10 anni fa non sono quelli che sono sollecitati a fare, a creare, a rispondere, a mettere in disposizione oggi. Quindi ad esempio anche la cosiddetta, quella che noi chiamiamo la biblioteca digitale, LOL, a cui possono accedere tutti gli iscritti alle biblioteche, negli ultimi anni ha avuto un'impennata. Nonostante ciò, non è che le persone non vengano più in biblioteca. In realtà è un universo che si va a costruire per rispondere alle esigenze delle persone e offrire opportunità. Dal corso di italiano, informatica, lingue, a incontri con gli autori, a mostre. Nell'altro abbiamo una piccola mostra su Star Trek e sulla fantascienza, nata dalla passione delle nostre volontarie del servizio civile in collaborazione con il MUFAN. Una piccola cosa che però comunque è stato, abbiamo fatto degli incontri collegati. Vi dicevo, il servizio biblioteche è costituito anche dal Bibliobus, che è una biblioteca viaggiante su ruote, proprio dove non ci sono servizi biblioteche. Le biblioteche sono presenti, non si sa, forse non si vede, anche nelle carceri, anche in alcuni ospedali. Chiaramente attraverso tutto un lavoro organizzativo, umano, e di investimento su progetti e anche su tutta una serie di volontariato civico e del servizio civile universale e anche del progetto senior civico per i pensionati. Vi dicevo, dico ancora questo, poi vi lascio la parola, la biblioteca digitale cosa si intende? Chiunque sia, c'è qualcuno di voi che è iscritto al servizio biblioteche? Quindi immagino che chi è iscritto conosca LOL, che è la biblioteca digitale, ovvero con le credenziali che si hanno al momento dell'iscrizione si può accedere, non è una cosa che vale solo per la città di Torino, è una piattaforma che si paga, ma che consente di scaricare ebook, è una edicola di 7-8.000 quotidiane riviste in tutte le lingue del mondo, gratuitamente. Quindi uno può farsi una panoramica curiosando in tutto il mondo, insomma, dell'editoria. E quindi vengono, possono dire, solleticati anche ulteriori interessi, per questo il senso dell'opportunità. E anche tante risorse libere, cosiddette risorse open. E basta essere iscritti con un login e una password, chiamando l'iscrizione e viene resa disponibile. Quindi tutto quello è liberamente accessibile e gratuito di avvio per ora. Quindi io torno a voi, vi ringrazio della presenza, ringrazio ancora l'impresa d'Angolo Manzoni, perché tutte le iniziative che potete vedere sul nostro sito e anche raccolte nell'opuscolo mensile sono realizzate grazie a un lavoro di rete notevole e continuo che si implementa grazie a relazioni, a progetti. E forse il prossimo anno la città di Torino tornerà dopo 20 anni a dare un budget per le attività culturali, per le biblioteche civiche, forse, perché tutto il lavoro che è stato fatto appunto con le librerie, con gli editori, con associazioni, con soggetti, con enti, insomma, con singole persone. Grazie a tutti voi e io cedo quindi la parola a Mariano Tomatis. Grazie. Grazie. Allora, benvenute, benvenuti. Sono particolarmente emozionato. È spento. No, perché già non funziona abbastanza cose. Adesso sarei ancora più emozionato. Oh. Questo è il nostro sistema di proiezione. Fantastico. Sono particolarmente emozionato per la prima presentazione pubblica di UFO 78 a Torino. Perché chi lo ha già letto non ha bisogno di presentazioni, chi ancora non ha letto il romanzo e si sofferma sulla copertina ci sono tre elementi che sono al centro della narrazione: gli UFO, i dischi volanti, il 78, e questa è la parte verbale della copertina. C'è una automobile rossa via mezz'aria. E c'è sullo sfondo un monte che, sin dalle prime pagine, si svela essere un monte chiamato Quarzerone, che però, grattando un po' sotto la superficie, soprattutto se si vive in questa zona, tante delle voci, delle leggende che emergono sin dalle prime pagine ricordano tantissimo la montagna che si trova alle porte di Torino, che è la montagna del Musinè. E in particolare, nel romanzo, anche qui, sin dai primi capitoli, molte scene sono ambientate proprio a Torino. Quindi Torino è la prima assente importante di questa copertina, che però è molto ben rappresentata all'interno del romanzo. C'è quindi qualcosa che lega questi diversi elementi, gli UFO, il 78 e la città di Torino. In che modo Torino è entrata in questa narrazione? Qualche anno fa, insieme a Booming 1, che è l'ospite di questo incontro, siamo stati una domenica mattina a Torino Nord, nel garage invisibile dall'esterno, sotto un anonimo condominio, che si presenta agli occhi di chi ci entra come, non so se ricordate la fine di Predatori dell'Arca Perduta, un enorme hangar pieno di casse dentro cui viene stipata l'Arca dell'Alleanza nel film di Spielberg. Ecco, questo è un enorme stanzone traboccante dossier con centinaia, migliaia di registrazioni di avvistamenti UFO, fotografie, testimonianze raccolte a mano, trascrizioni di telefonate, perché c'è un numero da chiamare se uno ha visto un disco volante, una luce misteriosa nel cielo, un archivio ufologico tra i più grandi del mondo, così capillare che se fate come me, chiedete il ritaglio dell'avvistamento UFO del giorno della vostra nascita, loro vanno nel faldone 1977, prendono la sezione di maggio, recuperano l'11 maggio, vi restituiscono la fotocopia dell'UFO a Valgioie, apparso il giorno in cui siete nati o nati. Quindi io da allora ho il dubbio che la mia stessa esistenza abbia in realtà un'origine extraterrestre. Dentro questo spazio che è romanzesco ma appartiene alla realtà, abbiamo trascorso una mattinata a sentirci raccontare com'era la Torino del 78, che poi ritroviamo tra le pagine di questo romanzo, riprodotta nei minimi dettagli, E diciamo, la mia emozione è anche più grande del dovuto, perché in sala ci sono diversi degli appartenenti di questo comitato che nel 78 militavano già in questa associazione che esiste ancora e oggi ha un convegno contemporaneo a questo al MUFANT su Buzzati e le stelle, che è il CISU, Centro Italiano Studi Ufologici, ed essendo in questa sala sono pronti a impallinarmi non appena io dica qualcosa che non sia rigorosissimo, perché il loro approccio agli UFO naturalmente non è quello di visionari, ma è quello di chi vuole vederci chiaro e distinguere lucciole dalle lanterne. Da molti anni hanno diverse riviste sull'argomento, riviste che poi appaiono in forma lievemente deturnata nel romanzo. Una di quelle più antiche e interessanti è Clipeus, che è una rivista appunto che tra l'altro si occupa di, sottotitolo, Cronache insolite del Piemonte, leggende, miti curiosi, folklore, libri e documenti rari. Vi mostro questo in particolare perché qualche anno fa ho recuperato questa copia dai loro archivi, l'ho aperta e ci ho ritrovato all'interno un libro del fine 800 che racconta dei misteri del Roccia Melone, un libro completamente dimenticato che grazie al lavoro del CISU è stato recuperato nel 73 e che io ho ritrascritto e abbiamo pubblicato qualche anno fa insieme a Filo Sottile e Davide Gastaldo per l'edizione Tabor, facendone un'edizione moderna e col commento critico. E quindi ha avuto una nuova vita, terza dopo l'edizione originale e l'edizione anni 70 di Clipeus. In particolare ho recuperato dagli archivi del Clipeus un numero del 79 che in copertina ha gli UFO e le apparizioni mariane, che si chiede se esistono dei collegamenti tra gli avvistamenti della Madonna e gli avvistamenti degli UFO. Due degli articolisti che hanno scritto con questo numero del 79 sono in sala, e quindi cito direttamente dalle loro pagine. L'articolo di copertina sugli UFO e la Madonna contiene in nuce quello che poi i booming esploderanno più di recente e diventerà il romanzo UFO 78. Leggo questa citazione, così ti passo la parola e ci racconti in che modo queste suggestioni sono poi diventate un romanzo vero e proprio. Queste visioni in genere si verificano quando la società vive in uno stato di tensione, quando morì Cesare nacquero centinaia di presagi, quando ci fu l'invasione del Messico da parte degli spagnoli i presagi si ripeterono, quando divampò la guerra fredda i dischi volanti non si contavano più, quando venne rapito Moro gli UFO andavano e venivano in lungo e in largo. Si tratta forse di una ripresa della tipica retorica cristiana, l'UFO non comunica con le autorità ma con il povero pescatore, con l'operaio, con l'umile, insomma. Nel 68 in Italia molti vedevano la Madonna in lacrime o illuminata da una luce celeste, oggi vedono gli UFO. Ok. Non te lo ricordavi? L'autore è Paolo Fiorino, il signore vestito di verde. Allora, salve, sì, salve a tutte e tutti, grazie di essere venuti qui alla presentazione di UFO 78, la prima torinese. Ieri ero a Piossasco e la bibliotecaria della Biblioteca Comunale di Piossasco ha iniziato dicendo: i Booming sono venuti a presentare questo libro a Piossasco prima che a Torino, e c'è stata un'ovazione. C'è stata un'ovazione. Ok, sì, dunque, questa citazione d'epoca da Clipeus di Paolo Fiorino è in effetti il nucleo concettuale del romanzo di UFO 78. E c'è una domanda che ci si fa da decenni, il CISU nel 2018 fece un convegno nazionale a Bologna su questo nel quarantennale: perché nel 1978 si avvistarono così tanti oggetti volanti non identificati. È un anno record. In quel numero di Clipeus c'è anche il grafico degli avvistamenti e si può vedere veramente l'intensità del fenomeno, che nonostante gli anni 70 siano stati un decennio di avvistamenti di UFO e anche di ossessione, diciamo, di fissazione per gli UFO e per il mistero in generale, il 78 si staglia anche su quel fondale. Come mai? Si sono tentate risposte con diversi tagli disciplinari, con diversi approcci, diverse angolature antropologiche, sociologiche, psicologiche, anche politologiche, e però insomma permane ancora aleggiano ancora diverse domande su la vera natura di quel fenomeno sociale di massa. Nel 1978 si parlava di UFO ovunque, e, però è una cosa che è stata poi nella memoria collettiva degli italiani è stata un po' accantonata, tranne chi ha continuato ad occuparsi della tematica. Quando si è parlato, diciamo, nel mainstream del 1978, in realtà lo si è sempre fatto ricordando principalmente il sequestro Moro, quei 55 giorni, la crisi politica che ne derivò e tutto il corollario, insomma tutte le conseguenze e ripercussioni che ebbe quella temperie nell'Italia degli anni successivi. Dopodiché si ricorda che è l'anno della legge Basaglia, è l'anno della legge sull'aborto, è l'anno delle dimissioni del presidente Leone, e al Quirinale va Sandro Pertini, insomma è un anno molto denso di grandi avvenimenti, è l'anno dei tre papi sul soglio di Pietro, perché muore Paolo VI, viene eletto pontefice Giovanni Paolo I, ma dopo un mese muore, e anche lì misteri, dietrologie, eccetera, e poi diventa Papa Giovanni Paolo II, che è anche il primo Papa non italiano dopo mezzo millennio. Quindi ci sono tanti eventi anche simbolicamente forti che in qualche modo hanno contribuito nella memoria codificata, nella memoria sociale codificata di quell'anno, a spingere a margine in un cantuccio la memoria invece di questa fissazione di massa per gli UFO. Però quando lo dici, quando lo ricordi a qualcuno, il 1978 è l'anno degli UFO, molto spesso inneschi i ricordi. È vero, anche mio zio quell'anno vide un UFO, e pian piano riemerge questa cosa. Nel mio caso era mio bisnonno. Il mio bisnonno disse di aver visto un UFO una sera in una ridente località del Basso Ferrarese, Massa Fiscaglia. Lui aveva il bagno in cortile, una sera uscì e vide le luci, ma dalla descrizione che si è fatta in famiglia era semplicemente un aereo notturno, ma insomma aveva già una certa idea. Comunque sì, quando si recuperano le fonti dell'epoca, banalmente anche solo i giornali di quei giorni, si riesce a intuire la portata del fenomeno. Ora, io nel 78 avevo 8 anni e non sono mai arrivato ai livelli di Paolo Fiorino, però ritagliavo gli articoli sugli avvistamenti di UFO che trovavo da piccoli e li incollavo su un quadernone che poi è andato perso, perché quell'anno lì effettivamente ero fortemente incuriosito dal fenomeno, ero un bambino abbastanza incline a interessarmi ai misteri. Gli anni 70 sono anche gli anni di un'altra grande voga, che è quella della parapsicologia, e si parlava tantissimo del triangolo delle Bermude, era proprio un vero meme culturale dell'epoca che poi è andato scemando, e soprattutto io già da piccolino ero affascinato dai libri di Peter Colosimo, che all'epoca appunto era un autore di best seller, i suoi libri erano in tutte le case. Io ricordo il primo che mi capitò per mano fu proprio credo quell'anno lì, ed era un'edizione, era l'edizione classica di Sugar Godin, Astronavi sulla preistoria, che quando lo aprì saltarono via tutte le pagine, era incollato male, dopo le riordinavo, ma continuavano a cambiare di posto come se avessero una volontà loro. Io ero rimasto molto affascinato da Peter Colosimo. Qualche anno dopo condusse anche assieme a sua moglie Caterina un programma in TV alla RAI, di cui io poi vidi alcune puntate, e dopodiché questa cosa anche in me era andata scemando, mi ero interessato di tutt'altro. Nel 2006, assieme a un collega scrittore milanese, Giuseppe Genna, abbiamo cominciato a parlare di quando eravamo piccoli, lui ha la mia età, ed è venuto fuori subito Peter Colosimo. E ci siamo chiesti, no? Appunto, Peter Colosimo, era un po' che non, effettivamente noi non ne sentivamo parlare. Nel 2006 è venuto su tutto l'interesse per gli UFO, tutto questo immaginario condiviso che molti bambini della mia età avevano. Abbiamo coinvolto gli altri Wuming in una sorta di chiacchierata, improvvisazione narrativa, e lì per la prima volta è venuto fuori il nocciolo, non quello concettuale di cui parlavo prima, narrativo, di UFO 78. L'idea di uno scrittore ispirato a Peter Colosimo nei 55 giorni del sequestro Moro. con un convegno di ufologi a Roma che salta per aria, che appunto viene annullato, perché quella mattina, quello in cui doveva essere presentato alla stampa e al pubblico questo convegno, c'è l'agguato di Via Fani. Quindi il primo nocciolo narrativo del libro risale a parecchi anni fa. Poi ha avuto delle vicissitudini, che noi abbiamo ogni tanto ripreso in mano, e poi per lo riaccantonavamo, perché dovevamo scrivere altri libri, eravamo concentrati su altre cose. Dopo l'armata dei sonnambuli, quindi a metà del decennio scorso, l'abbiamo ripreso in mano, abbiamo cominciato a svilupparlo senza Genna, perché nel frattempo si stava occupando di tutt'altro. Sarebbe stato interessante però scriverlo insieme a Genna, cioè venivano fuori delle cose ancora più psichedeliche, molto probabilmente. Però poi una storia in cui ci eravamo imbattuti ha preso una sua autonomia, non poteva stare dentro questo libro ed è diventata Proletkult. Proletkult è nato da una costa, dal midollo spinale, è nato proprio dal midollo spinale di UFO 78. Nel 2018 l'abbiamo ripreso in mano. E poi l'abbiamo sviluppato in pieno periodo pandemico, cioè ci stavamo lavorando e doveva uscire l'anno scorso, abbiamo chiesto una proroga, insomma è stata piuttosto accidentata ed è uscita adesso a ottobre. Ha due noccioli, quindi un nocciolo narrativo molto antico, almeno nelle ere geologiche wuminghiane, va molto indietro, e poi è un nocciolo concettuale, teorico, di domanda, proprio di domanda, di quesito, che è ancora più antico, perché risale al 1978 stesso. Perché? Perché tutti questi avvistamenti di UFO quell'anno lì? Qual è il rapporto, se c'è, ma c'è sicuramente di qualche tipo, tra quegli avvistamenti e tutto il resto, tutto quello che stava succedendo quell'anno e in generale in quella fase storica? I nostri personaggi ne discutono in tempo reale, mentre questo sta accadendo, e il libro contiene una dialettica tra varie possibili interpretazioni, no? E quella è la parte più, come dire, anche un po' filosofica del romanzo, no? Le luci in cielo cosa sono per noi? Cosa sono quelle luci in cielo? Perché quando le vediamo saltiamo subito alla conclusione che siano misteriose? Cos'è questo anelito di mistero che c'è in noi, per cui vediamo una luce e diciamo che è non identificata, prima ancora di tentare di identificarla, no? E il libro contiene vari dibattiti su questo. Ci sono appunto gli ufologi e ci sono gli ufofili, e insomma, penso che una risposta, sono d'accordo con quello che ha scritto Paolo Fiorino sul nostro blog JAP, una risposta univoca, una spiegazione non sia possibile. Bisogna stare dentro il gioco di interpretazioni, perché ciascuna ha un nucleo di verità. Sì, la grande intuizione è cogliere un argomento così fertile dove c'è un grosso conflitto di ipotesi, perché lì c'è un potenziale narrativo gigantesco che nel romanzo diventa più voci, più relazioni, più piani di lettura. Il romanzo ha molto risuonato quando l'ho letto con come dire, una mia vicenda autobiografica, perché alla fine del 2013 tornavo da Londra assolutamente deluso da un mio beniamino dell'illusionismo che era andato. Io sono un illusionista, ho preteso che comparisse il nome illusionista sulla locandina della giornata, perché questa sera ci saranno Enrico Manera e Carlo Greppi, che sono degli storici. In teoria Wuming 1 mi presenta sempre come uno storico della magia, ma davanti a Greppi e Manera io ho preferito... Dovevamo chiamare loro maghi della storia. L'impressione dell'illusionista che era più cazzaro, così abbassavo le aspettative. Ma io tornavo da Londra assolutamente deluso dal mio beniamino numero uno, dicendo: se la magia ha questo orizzonte, attacco al chiodo. Fai il nome. Derren Brown. attacco la bacchetta magica al chiodo, perché evidentemente devo passare ad altro. E in aereo, un viaggio di ritorno, avevo trovato questo libro di Wuming 4 che si intitolava L'eroe imperfetto, e sfogliandolo a un certo punto mi batto in questa frase ovviamente argomentata da Dio, che diceva: la letteratura può essere un'arte marziale. E per me è stata un classico l'incudine sulla testa che ti fa risvegliare. Una cosa, non ho mai sentito una cosa del genere. E questa cosa mi ha molto incuriosito. Da lì a breve un'amica comune, Loredana Lipperini, ci avrebbe presentati gli uni agli altri e avremmo poi iniziato una strada insieme. Loro mi hanno convinto a non lasciare la magia, ma a provare a leggerla in un'ottica diversa. L'esperienza del Peter Colosimo del romanzo, io l'ho vissuta in prima persona, assolutamente deluso dagli orizzonti di quello di cui si occupa. Il protagonista Martin Zanca si occupa di misteri, dall'arca perduta ad Atlantide alle impronte dello Yeti nel Sahara, insomma questi argomenti che non sono certo alta letteratura, ma robaccia. L'illusionismo si occupa appunto di un'arte teatrale di ultimissima categoria, non esiste una critica, non esiste, è proprio la magia, è proprio un'arte teatrale tra le più basse. E la stavo per abbandonare, non l'ho abbandonata perché ho capito che c'era una possibilità, e anche la parabola narrativa, senza spoilerare nulla, del romanzo, cioè questo Martin Zanca parte deluso da quello che sta facendo, si chiede se non esista un esito diverso per il suo lavoro e nel romanzo lo trova, quindi sì. Ha risuonato potentemente con quella che è stata la mia esperienza. C'è un passaggio che mi ha molto colpito. A un certo punto Martin Zanca si incontra con una santona, una guru, la leader spirituale di un gruppo che mette in piedi una comune, che poi ha anche questa una sua traiettoria narrativa molto interessante. E mentre si confrontano, lui la prende in disparte e fa: senti, io e te facciamo lo stesso lavoro, guadagniamo vendendo balle. E lei risponde in modo arguto dicendo: beh, la differenza tra le nostre narrative è che le mie creano comunità. Io devo dire, nella Women Foundation, che è il nome che si dà al collettivo allargato che si è radunato intorno al blog di Women Jap per iniziare tutta una serie di attività di ricerca, di studio, di indagine che trascendono e travalicano i romanzi per ampliare la riflessione ad altri ambiti. Io questo ho trovato nella Women Foundation e in particolare uno dei romanzi di Roberto, che Point Lenana, è stato il mio punto d'ingresso alla poetica del gruppo, ed è un romanzo che parla di alpinismo e che è per l'alpinismo, il battesimo della possibilità di praticare un alpinismo militante, un alpinismo antimacista, un alpinismo che alla conquista della vetta sostituisce narrative invece di un racconto del conflitto, di racconto dal basso, della montagna, che si tiene lontano dalle retoriche ecologiste o di divisione netta tra città e montagna, ma che cerca di analizzare la montagna da un punto di vista più così conflittuale e profondo. Quello che secondo me fa UFO 78 è fare la stessa cosa con il discorso dei misteri degli UFO, se Point Lenana ha aperto per l'alpinismo la possibilità di concepire collettivamente un alpinismo di altro tipo, UFO 78 può diventare una sorta di cassetta degli attrezzi per immaginare un racconto del mistero, dell'impossibile, degli improbabili, del bizzarro, con un'ottica diversa, più collettiva, dove il conflitto non viene spunto ma viene incluso nel racconto. E UFO 78 stesso è un primo tentativo di immaginare e mettere in pratica una narrazione fatta in questo modo. Ben impegnativo. Allora, dunque, vediamo di ricostruire. Prelevo un po' di elementi del tuo intervento, li metto in un altro ordine per provare a sviluppare la mia argomentazione, che parte dalla tua. Allora, Point Lenana era un oggetto narrativo non identificato, come li chiamiamo noi, vale a dire sono quei libri incatalogabili, inclassificabili, che ibridano tipologie testuali diverse e non appartengono a nessun genere definito e possono comparire su qualunque scaffale di libreria o indifferentemente, a seconda del capriccio, nella classifica della saggistica o della narrativa. Sono libri figli del nostro motto: raccontare una storia con ogni mezzo necessario. Io ripeto sempre, fino alla nausea, che l'accento va su necessario, quindi non raccontare una storia con ogni mezzo purché sia, ma con quello che in quel momento senti indispensabile. Io non riesco ad andare oltre nel raccontare questa storia se non ricorro a questa tecnica, se non vado in questa direzione, perché mi sembra l'unica che può interpretare questa mia esigenza e metterla sulla pagina. E questo viene fatto ignorando completamente qualunque steccato tra repertori di tecniche, tra cassette degli attrezzi, tra generi letterari, eccetera. Quindi Point Lenana era un po' questo. Tu giustamente l'hai definito romanzo, in realtà appunto il romanzo ha questo in particolare, che ha un canone inclusivo. Alcuni libri che alla loro uscita non furono considerati romanzi oggi sono considerati tali, perché l'idea di che cos'è un romanzo in realtà si è evoluta nel tempo. Il romanzo ha incamerato un sacco di tecniche espressive che venivano da fuori, un sacco di espedienti, di stratagemmi narrativi, di sperimentazioni letterarie nel corso del tempo, normalizzandole anche in parte, e quindi anche Point Lenana effettivamente può essere definito un romanzo, perché poi ci si mettono un sacco di attributi, romanzo di non fiction, romanzo verità, cioè si cerca sempre di accostare al romanzo qualcosa per far capire che non è proprio quel romanzo, ecco, anche lì, per dire che un romanzo è un romanzo, si dice è un romanzo, con trattino, no? Ma sei di Torino? Sei di Torino? Al mare ce lo chiedono sempre. Ma è un romanzo, ecco. Ecco, no, Ponte Lenana non è un romanzo, è un romanzo, trattino, punto di domanda. UFO 78 è un romanzo, che però simula un oggetto narrativo non identificato, quindi siamo andati un passo oltre, no? Perché è costruito come una simulazione di inchiesta però scritta come è stata scritta Point Lenana, cioè ricorrendo a ogni tecnica letteraria e espediente, tranne uno, l'uso della prima persona singolare. UFO 78 è costruito come l'inchiesta fatta e scritta da un'altra persona che non siamo noi, che però non dice mai io. Cioè, quelle riflessioni che ci sono, quelle interviste che vengono riportate, quel lavoro d'archivio che viene esposto, non è quello di Wu Ming, ma è di un personaggio implicito, un narratore o una narratrice che sta scrivendo la propria inchiesta. Questa persona è andata a intervistare i personaggi di UFO 78, cioè gli eventi di allora ancora vivi, è andata a fare lavoro di ricerca proprio d'archivio, ha fatto dei collegamenti, delle supposizioni, dove non c'è la documentazione immagina, ci sono alcuni dialoghi che chiaramente non possono aver avuto dei testimoni, perché non sono stati riportati da nessuna parte e le persone che vi hanno preso parte sono morte, ma vengono comunque ricostruite con un'inferenza da parte di questa narratrice o narratore. Ecco. Questa cornice ci ha permesso di lavorare in un certo modo sul materiale appunto misterico dell'incanto, della meraviglia, stando sempre diciamo dentro la dialettica delle varie interpretazioni di cui parlavo prima, del fenomeno ufologico. È chiaro che questa narratrice o narratore, e quindi di converso noi, siamo piuttosto vicini all'ufofilia, alla posizione espressa da uno dei personaggi, che è Jimmy Fruzzetti. Jimmy Fruzzetti, questo proprietario di negozio di dischi in Lunigiana ad Aulla, non si definisce ufologo, cioè non vuole costruire un discorso sugli UFO, logos, e non vuole neanche per forza esercitare la ragione, che è l'altro significato di logos, sugli UFO, non vuole catalogarli, non vuole classificarli, non vuole cercare di spiegarli fino in fondo, ma dice quello che va interrogato è proprio il loro essere per noi non identificati, no? E questo innesca anche tutta una serie di letture che avvengono dentro il libro su qual è il rapporto tra quel non identificato e quello che sta succedendo in Italia in quel momento, lo stato d'emergenza, la legislazione antiterrorismo, eccetera. Non ci sarà un desiderio di non identificato nel momento in cui tutti vogliono identificarti, no? E non vado oltre perché sennò rovino alcuni dialoghi platonici tra due persone il cui rapporto non è però platonico nell'altro senso, ecco, perché avvengono dopo il sesso o subito prima questi dialoghi, così, no? Allora, questo ci permette di riflettere in un certo modo sulle pagine, su appunto l'incanto il mistero, la meraviglia, cosa fare della meraviglia, cosa fare del mistero, come continuare a mantenere il mistero senza rinunciare alla ragione, alla razionalità, cos'è questo bisogno che noi abbiamo di incanto e di meraviglia. Viene applicato al caso di studio degli UFO, perché fin da subito in realtà sui giornali gli UFO vennero interpretati come un segno di riflusso. La gente non ne vuole più sapere della politica, dell'impegno, della pesantezza ideologica, della cupezza degli anni di piombo, che non erano ancora chiamati tali, perché in realtà è con il film di Margherita von Trotta, che esce in Italia nel 1980, il cui titolo tradotto è Anni di piombo, che viene usata retrospettivamente questa espressione, che negli anni 70 nessuno ha mai utilizzato, non esisteva ancora, però insomma quella cupezza lì, spesso più narrata che reale, perché non sempre, appunto, sono anche in realtà un decennio molto colorato, pieno di meraviglioso, appunto un decennio di grandi avanzamenti sociali e culturali, di grandissima vivacità e creatività, che è rimasta poi schiacciata sotto il cliché degli anni di piombo, no? E però fin da subito i giornali, soprattutto il Corriere della Sera, comincia a pubblicare articoli, alzeviri, commenti, dicendo certo, gli italiani stanno col naso per aria perché non ne possono più di quello che sta succedendo. Addirittura, appunto, ad un certo punto vengono ringraziati gli UFO perché hanno fatto pensare ad altro e non appunto alle gambizzazioni e a cose di questo tipo. Però è una lettura terribilmente utilitaria da parte di chi la fa, e quindi strumentale per forza di cose, che banalizza terribilmente il fenomeno e il rapporto che c'è tra quelle luci in cielo. E poi appunto un nostro personaggio dice, ma si dice evasione, come se fosse una cosa negativa, ma quando vediamo un film di galera, un film carcerario, dove un detenuto cerca di evadere, noi tifiamo per lui, perché può essere anche la peggiore carogna, può aver fatto le peggio cose, però noi tifiamo perché riesca ad evadere, perché comunque a nessuno piace stare in galera, immedesimarsi con qualcuno che sta in galera, vivere la propria condizione come quella di una galera. Quindi anche fosse anche che gli UFO permettono di evadere, però bisogna vedere evadere da cosa e come, non necessariamente evadere nella direzione del disimpegno e così. Quindi c'è, dicevo prima, una dialettica piuttosto complessa che mettiamo in campo, e alla fine è una dialettica, su questo sono d'accordo, è abbastanza simile a quella che era messa in campo in Point Lenana riguardo alla montagna. Che cos'è per noi la montagna? Perché andiamo in montagna? Come andiamo in montagna? Cosa cerchiamo? Da cosa scappiamo quando andiamo in montagna? Cosa c'è in montagna? Cosa troviamo e magari non vediamo? Cioè, questo appunto termine della disvisione, no? Cioè, che cosa disvediamo quando andiamo in montagna con un certo paraocchi? Alla fine sì, è come per le luci in cielo. Alla fine è come per le luci in cielo, spesso poi vengono anche avvistati in montagna, no? Quindi alla fine il cielo in qualche modo si chiude. Ecco. Questo citare l'ufofilia è un fertile anacronismo, perché naturalmente è un termine che arriva dalla sensibilità moderna, ma che viene in qualche modo retrodatato, sì, per immaginare quello che forse qualcuno all'epoca pensava e non aveva il termine per verbalizzare esattamente quel tipo di sensazioni. Però è particolarmente, è un gioco che fate spesso, penso all'Armata dei Sonnambuli, in cui i personaggi fanno delle affermazioni che, rilette oggi dopo la fase nazista, il fascismo in Italia, ovviamente ci suonano come anticipatorie, ma essendo in un romanzo scritto negli anni 2000, il gioco è particolarmente interessante. Questo discorso dell'ufologia fa eco con un approccio che io chiamo ecologico all'interpretazione di certi fenomeni, che nel romanzo si ritrova, per esempio, quando parlate di eroina. A un certo punto si discute sul che cosa rende tossico il tossico, e c'è un punto di vista notevole, perché si dice che la malattia del singolo non è la droga che si sta iniettando, ma molte volte la tossicità sta nell'ambiente che lo circonda, quindi non va curato lui, va curato l'ambito in cui è inserito, e che quindi cambia completamente la prospettiva, perché ci fa immaginare che la terapia diventi una terapia collettiva e non soltanto quella individuale che ci vende la società neoliberale, che ti dice vai dallo psicologo, non curiamo la comunità e cerchiamo di capire se l'origine di certi mali sono invece sociali e non individuali. Ci sono tracce di ufofilia all'epoca in personaggi inaspettati, per esempio a un certo punto nel romanzo compare questo Reineck, che non esiste davvero, un lettore si è arrabbiato perché l'avete mal trascritto, invece di capire che era un omaggio ad Reineck si è lamentato che c'era un errore di un refuso nel libro. Ma se voi andate a cercare le interviste di Reineck del Corriere della Sera, ho trovato questa del maggio 78, il titolo è "Che cosa fare se si incontra un extraterrestre?" e lui risponde "Non spaventatelo se non scappa". Questa è ufofilia, cioè è il senso di non andiamo a caccia col fucile. Da poco è uscito un libro sponsorizzato e curato da Stefania Consigliere, che ha avuto un enorme influsso sul nostro parlare di incanto e sul capire che cosa può essere l'incanto. Il libro si intitola "Cose da fantasmi". L'autrice Avery Gordon dice che i fantasmi non vanno cacciati, dice che i fantasmi sono tracce di ferite sociali profonde che preservano memoria dei traumi riproponendosi periodicamente, spesso in forme distorte e allucinatorie. Lei scrive letteralmente: seguire quei fantasmi significa riportare l'attenzione laddove sono rimasti solo vaghi ricordi e tracce insignificanti, visibili solo a chi si prende la briga di guardare. Ciò significa che invece di cacciarli dovremmo imparare a parlare con i fantasmi, ad ascoltarli. Noi che siamo cresciuti con Ghostbuster sono gli acchiappa fantasmi, forse dovremmo immaginare degli abbraccia fantasmi, cioè situazioni in cui dove c'è il fantasma si va e si cerca di capire quale dramma ha generato questa cosa. Il romanzo è pieno di questo tipo di abbraccia ufologi, insomma. Sì, no, tra l'altro c'è un termine dispregiativo per definire i militanti ecologisti che cercano di difendere foreste, che è abbraccia alberi, tree huggers, quindi abbraccia fantasmi. Bisogna rivendicarsi, entra in risonanza con quello lì. Anche noi Booming abbiamo lavorato molto sul concetto di fantasma, partendo da altre cose, fantasmi dei territori, fantasmi delle lotte che ci sono state sui territori che sono state soffocate, represse, la cui memoria è stata mal tramandata, ma che continuano a mantenere vive delle contraddizioni che poi ogni tanto si acuiscono. Abbiamo lavorato parecchio sul concetto di fantasma, e siamo d'accordo sul fatto che il fantasma vada accolto, vada ascoltato. Anche la memoria degli anni 70 è un fantasma in questo paese, perché non si sono ancora davvero fatti i conti, non si sono voluti fare i conti, c'è proprio tutta una complicità sistemica, un meccanismo oggettivo che impedisce di fare compiutamente i conti con quel decennio che ci ha lasciato dei lasciti e degli strascichi e delle contraddizioni che periodicamente si acuiscono, alimentano conflitto sociale, ma che poi in qualche modo ritornano giù, insomma, e questo conflitto poi si disperde, evapora e non viene recepito davvero, e viene sempre, cioè qualunque movimento deve fare i conti col fantasma degli anni 70, con questo fantasma chiamato genericamente violenza politica, è una spada di Damocle che è sempre sulla testa di chiunque cerchi di cambiare le cose, per via di come è stata risolta manu militari anche la contraddizione di quella stagione. E tutte le narrazioni più quotate sugli anni 70 sono narrazioni tossiche, l'espressione che abbiamo coniato anni fa, adesso la usano tutti, però per noi ha un significato ben preciso. Una narrazione tossica è una storia che è stata raccontata sempre e solo nello stesso modo, senza variare punto di vista, senza tenere conto di elementi ulteriori, ma e pian piano ha scavato un solco e va sempre solo avanti e indietro in quel solco, non può andare in nessun'altra direzione, quindi si sclerotizza e non ti dice più niente. Tutte le narrazioni in auge ancora oggi sugli anni 70, quelle che vanno per la maggiore nel mainstream, sono in realtà narrazioni tossiche, e una di queste è proprio quella sulla violenza politica, l'altra è quella sul riflusso. cioè il riflusso non fu del tutto spontaneo, non fu solo un fenomeno così, insomma, che si era tirata troppo la corda e a un certo punto la corda si è strappata, la società ha cominciato ad andare in un'altra direzione. No, il riflusso è stato anche, se non pianificato a tavolino, è stato accompagnato, è stato da determinate politiche, anche culturali, è stato imposto e ha sempre camminato a braccetto con la repressione. Il riflusso, non puoi capire il riflusso se non capisci la repressione, non puoi capire, non so, la febbre del sabato sera se non capisci le leggi speciali, e viceversa, però anche. E quindi una narrazione non tossica dovrebbe introdurre questo elemento di complessità nel concetto di riflusso, e questi sono fantasmi di contraddizioni non risolte, gli spettri degli anni 70, però invece che esorcizzati e sospinti via, come cerca di fare la società ufficiale ogni volta che se ne parla, andrebbero invece ascoltati e andrebbe accolto il perturbante che loro portano. Il perturbante è, ad esempio, un racconto degli anni 70 che spiazzi e che sia completamente sganciato da questi cliché e che ti faccia rientrare all'interno di quel decennio da angolature inaspettate. E noi è quello che abbiamo cercato di fare con questo libro. Da tanti anni ci chiedevano quando scriverete un libro sugli anni 70, no? E probabilmente pensavano a una rappresentazione frontale di quegli anni, no? Quindi appunto i movimenti, la lotta armata, la repressione e quant'altro. E noi volevamo scrivere un libro sugli anni 70, ma non volevamo prenderlo frontalmente. La nostra poetica non è mai stata quella, non è mai stata quella della rappresentazione frontale, è sempre stata quella della rappresentazione angolata, del tiro, per usare la metafora calcistica, del tiro ad effetto. No, noi una volta facciamo il cucchiaio, come diceva Totti una volta quando era un calciatore e non un ludopate. E quindi sì, l'esigenza che abbiamo sentito è stata proprio questa. Abbiamo ascoltato un fantasma in questo caso, e il fantasma è, e quindi qui chiudo il cerchio con la primissima cosa che ho detto nella mia prima risposta, il fantasma era anche la storia dell'ondata, che come viene chiamata appunto l'ondata di avvistamenti di UFO dell'epoca, che è rimasta un fantasma perché poi è stata dimenticata dalla maggior parte delle persone. Anche chi un UFO l'aveva visto nel 78 spesso si è dimenticato di averlo visto, o comunque si è vergognato, non lo so, perché nel frattempo è calato l'interesse per la cosa e insomma è accantonato quell'episodio della propria vita. Ascoltare il fantasma dell'ondata, abbracciarlo, accoglierlo in qualche modo, ci ha consentito di rappresentare gli anni 70 in modo, secondo noi, non tossico. È creativamente molto fertile questo prendere due fattori che sono cronologicamente contemporanei e provare a vedere che relazione c'è tra i due. Sulla mia produzione letteraria ha influito particolarmente l'Armata dei Sonnambuli, in cui avete affrontato la Rivoluzione Francese, questo mostro gigantesco mappato 1-1 nella letteratura disponibile online, e come punto d'ingresso avete utilizzato il mesmerismo, che apparentemente è quanto di più lontano ci sia dall'impegno politico e dalla lotta, facendo vedere in che modo queste due cose apparentemente lontanissime abbiano interagito, che diventa proprio una formula creativa quella di prendere due eventi contemporanei e provare a sposarli. Penso alla serie Esterno Notte di Bellocchio, disponibile su Rai Play, quindi gratuitamente, o anche su Netflix se ce l'avete, in 6 puntate. Ogni puntata ha un punto di vista diverso. La puntata sul Papa fa lo stesso gioco quando Bellocchio si accorge che la Pasqua è caduta durante i 55 giorni del rapimento Moro, quindi anche il Venerdì Santo, e si immagina il Papa a letto che, mentre assiste perché è malato alla Via Crucis, ha la visione di Moro con la croce sulle spalle dietro tutta la DC, perché lui sta portando la croce per tutta la DC. E questa è un'immagine di una visionarietà strepitosa, perché è una sovrapposizione di eventi che è la Via Crucis e il rapimento Moro, e io l'ho trovata fantastica. Io, da illusionista, naturalmente sono interessato a capire cosa è successo di illusionistico, parapsicologico in quei giorni, e ho trovato una sovrapposizione anche qui, secondo me molto fertile, su cui voglio lavorare. Durante il rapimento Moro, un sabato sera alle 22, primo aprile, Piero Angela inizia una serie in 5 puntate intitolata Indagine sulla parapsicologia, in cui per la prima volta nella TV italiana la scienza fa a pezzi la parapsicologia dicendo che è tutto finto. Da queste 5 puntate che andranno in onda nei 5 sabati di aprile, pienamente sovrapposte ai giorni del rapimento Moro, Piero Angela, più importante divulgatore italiano, fa a pezzi l'ipotesi che esistano dimensioni altre, perché la parapsicologia è una bufala, tanto che l'anno successivo ci sarà poi una pubblicazione da parte di un parapsicologo che, commentando su questa esperienza, risponde alla indagine parapsicologica di Piero Angela usando l'espressione riflusso parapsicologico, come se anche il mondo del credere ai poteri paranormali, all'epoca si parlava di psicocinesi, telepatia, chiaroveggenza, fosse stato annientato nel 78, il 78 anno, anche come anno in cui tutto questo è saltato. Questo succede il primo aprile del 78. Il giorno dopo, 2 aprile del 78, nelle campagne bolognesi, Prodi, insieme ad altri professori dell'Università di Bologna, racconta di aver fatto una seduta spiritica durante la quale esce il nome Gradoli, che farebbe riferimento, si scoprirà più tardi, al covo dove stava Mario Moretti e che era poi scoperto. C'è un legame tra la trasmissione della sera prima e l'idea che questi qui si siano trovati, si siano inventati, facciamo la seduta spiritica per far uscire questo nome? Anche qui è un'ipotesi che è venuta a me perché sono andato a leggere i vari giornali dell'epoca e poi trovate una accanto all'altra: ecco perché lo Stato non può trattare con le Brigate Rosse, e di fianco a Massimo Inardi non piace l'antimago Piero Angela. E sono articoli che probabilmente all'epoca non venivano letti come se parlassero della stessa cosa, potessero essere parenti l'uno con l'altro. Chiedercelo a distanza di anni è fertile, è produttivo e produce nuovi significati, e ci, poiché ne parliamo col senno di poi, ci fa chiedere: siamo figli di questa cosa? C'è un legame tra l'intransigenza dello Stato dell'epoca e l'intransigenza messa in scena da quello che poi sarebbe diventato il CICAP, il Comitato per l'Indagine sul paranormale? Sì, sì, no, è molto interessante, anche noi ci siamo imbattuti in tanti accostamenti di questo tipo e sono qualcosa di molto simile a quello che Gianni Rodari chiamava il binomio fantastico, cioè lo spunto per cominciare a creare una storia e accostare due cose che apparentemente non c'entrano nulla, no? Nella grammatica della fantasia Gianni Rodari fa questo, per noi lo ha fatto la ricerca d'archivio sui giornali, perché spesso questi accostamenti si producevano, ma non è che gli impaginatori ne fossero consci, era semplicemente lo spirito dell'epoca che ti portava a selezionare le notizie in un certo modo, mettere l'una accanto all'altra. E poi è la nostra profondità di campo che ci fa vedere poi quali sono gli intrecci possibili, le comunanze di senso, i riverberi tra l'una e l'altra. Allora è interessante che la famosa storia della seduta non c'è in UFO 78, non l'abbiamo messa quella lì, perché c'è, ma perché non avete messo la seduta spiritica di Prodi? No, però c'è Rolf il sensitivo. Rolf il sensitivo, sì, c'è Rolf il sensitivo, sì. Allora, è interessante che quella seduta spiritica, sul racconto di quella seduta, sulle conseguenze di quella finta seduta spiritica che fu inventata come scusa per poter far arrivare alle autorità una soffiata che molto probabilmente era stata data dentro l'Ateneo bolognese, no? Cioè, lì era una casa del professor Clò, erano tutti docenti e ricercatori. L'ipotesi che è stata fatta è che a qualcuno di loro fosse arrivata una soffiata col nome Gradoli da persone all'interno dell'università, studenti o ricercatori, dottorandi e quant'altro, che avevano un canale aperto con le BR in qualche modo, no? E che a cui era arrivato all'orecchio il nome Gradoli, che era in realtà la via di Roma, dove c'era un covo che non c'entra però col sequestro Moro, in realtà era in via Montalcini, prigioniero Moro, non c'era la prigione del popolo lì, non c'entra nulla, no? Allora l'ipotesi che viene fatta è che, chiedendosi ma come possiamo far arrivare questa notizia senza bruciare la fonte o cose del genere, ha detto, visto che la sera prima era andato in onda Piero Angela, abbiamo detto, questo in realtà, questo elemento è di Mariano, però cioè, è perfettamente plausibile, comunque in ogni caso abbiano detto diciamo che stavamo facendo una seduta spiritica, è perfettamente nello spirito degli anni 70 il fatto che lo abbiano detto come se niente fosse, perché all'epoca così si provava a fare le sedute spiritiche. Oggi se uno dicesse ho avuto questa informazione mentre facevo una seduta spiritica gli riderebbero dietro, no? Cos'è questo? Devo mettere gli occhiali. Margo dall'Olanda, ecco, per quasi, perché poi noi mettiamo che il sensitivo Rolf sta cercando Moro, ma in realtà l'Italia è il paese dove i carabinieri spesso si rivolgono ai paragnosti, ai sensitivi, per trovare, anche nel caso di Ara Gambirasio di recente, eccetera, quando non sanno che pesci pigliare, fanno un campionamento a tappeto di tutto il DNA esistente nel circondario finché non dicono che un piccolo frammentino combacia con quello della persona che secondo loro è colpevole, oppure chiamano il sensitivo. E anche nel caso di Moro arrivò Croiset dall'Olanda a cercare Moro. Ad ogni modo, stavo dicendo, no, perché è interessante questa cosa, le conseguenze del nome Gradoli. E quella storia lì, quel malinteso tra via Gradoli e il paese di Gradoli, ok, ha creato un falso ricordo culturale. Tutti sono convinti che il paese Gradoli sia stato rastrellato, no? Che in conseguenza di questo nome Gradoli, che è stato dato da Prodi e gli altri alle autorità di polizia, al paese Gradoli ci sia stata una perquisizione di massa, i carabinieri siano entrati in tutte le case senza trovare niente, e si dice mentre loro cercavano al paese di Gradoli, in realtà le BR erano a Roma in via Gradoli. Ora, tutto questo è falso, non è mai accaduto, non c'è mai stata nessuna perquisizione di massa nel paese di Gradoli, mai, non è mai accaduto, cioè non è mai stato preso in considerazione di andarla a fare. Ok, perché questa notizia è arrivata assieme a mille altre notizie ed ha acquisito un senso particolare dopo, ok, in retrospettiva, come molte altre, ma in quel turbinio in cui tra l'altro il Viminale riceveva quotidianamente centinaia di segnalazioni da parte di mitomani, questa cosa sì, ok, va bene, Gradoli, però non fu mai istruita alcuna operazione del genere. Perché molti ricordano di aver visto addirittura le scene al telegiornale di quella perquisizione? Perché quella perquisizione lì è un elemento di fiction nel film Il caso Moro di Giuseppe Ferrara, quello dove Moro è interpretato da Gian Maria Volontè. In quel film si vede questa perquisizione e quindi ha creato il falso ricordo davvero, perché poi il film è passato in TV diverse volte. Nel falso ricordo, appunto, è diventato, io l'ho visto al telegiornale, addirittura nei verbali dell'ultima commissione Moro, l'ultima commissione parlamentare Moro, quella degli ultimi anni, addirittura il presidente della commissione, cioè c'è proprio lo scambio, dice quella perquisizione a Gradoli di tutte le case non è mai avvenuta, e il presidente della commissione parlamentare dice ma come, io l'ho visto al telegiornale. Ok, quindi rendiamoci conto della stratificazione di falsi ricordi, di cliché, di narrazioni tossiche, di bufale vere e proprie che circondano quel frangente lì, ed è stato innescato cioè praticamente è una catena che parte dalla finta seduta spiritica e arriva fino a un falso ricordo, quindi c'è una coerenza anche in questo processo. Ora, parlando di quella temperie lì, parlando degli anni 70 e parlando in particolare del caso Moro, uno deve fare continuamente lo slalom tra queste cose, perché ci sono delle letture complottistiche e controcomplottistiche di quella cosa lì. Noi abbiamo scelto di non indulgere in alcun modo in tutto questo, e tra l'altro alcuni anche in rete hanno commentato, io mi aspettavo un thriller sul caso Moro, no? Si aspettavano qualcosa tipo il film Piazza delle Cinque Lune di Martinelli, un film più brutto mai girato nella storia del cinema mondiale, e noi quando ce lo dicono ci sentiamo, ma sai che palle, ma noi non volevamo scrivere il thriller sul caso Moro, non ce ne frega assolutamente nulla. Allora ci chiedono, ma quindi il caso Moro è solo sullo sfondo? È più complicato di così, non è neanche sullo sfondo, perché in realtà curva tutto. cioè tutte le traiettorie dei personaggi, i loro percorsi vengono curvati dal fatto che c'è il caso Moro in quel momento, il convegno degli ufologi salta, Zanca riflette sulla propria crisi professionale ed esistenziale leggendo il dibattito sul fatto se le lettere di Moro sono vere o sono false, è davvero lui che le scrive oppure è drogato, ha la sindrome di Stoccolma, è impazzito e quant'altro, lui ne approfitta per ragionare sul proprio percorso di vita e di carriera. Tutto quello che succede viene curvato e deviato dal fatto che sta avvenendo questo dramma nazionale, del caso, dramma anche in senso teatrale, del caso Moro. Ogni piano salta per aria o deve essere cambiato e quindi non è nemmeno sullo sfondo, non è nemmeno in primo piano, è un po' ovunque, è un po' ovunque. C'è lo stesso problema nel ricostruire la storia sia ufologica sia misteriologica degli anni 70 a Torino, perché c'è una dimensione di quella vita e di quello scambio culturale di quegli anni che è quella della burla, cioè tanti gruppi per ingannarsi a vicenda. Dimmi che stai per citare Moravia. No, io volevo stare su Torino, ma ci ribalziamo la cosa. Qui a Torino c'era un gruppo che per prendere in giro l'altro mandava in giro dei falsi volantini, magari firmati da alieni, e quindi il gruppo B ci cascava, faceva il convegno. Il Musinè è pieno di iscrizioni costruite da un gruppo per fregare l'altro. E lo storico che non ha per primo il gusto della burla e che quindi non è sintonizzato su quella frequenza può non cogliere uno degli ingredienti principali di quella stagione, che qui a Torino è uno degli ingredienti fondamentali, e quando qualcuno farà un lavoro di scrittura seria su questo tema dovrà prendere in considerazione questa dimensione. I romanzi di Buming sono pieni di giochi di questo tipo, di bombe a tempo che esplodono magari dopo tempo, quando qualcuno ti fa notare che dietro quel nome hai provato ad anagrammarlo, oppure ma lo sai chi c'è dietro Paolo VI del romanzo? Come mai tutti gli ufologi finiscono con Ino? Non perché siamo la città di Fassino, Chiamparino, Appendino. Insomma, ci sono. Io non voglio spoilerare tutto in una presentazione, no, ovviamente. Perché sarebbe impossibile, troppa roba. Troppa roba. E però neanche niente, cioè facciamo anche ingolosire i presenti, limitiamoci agli aspetti torinesi. Okay. Abbiamo già detto che il Quarzerone è abbastanza ispirato al Musinè. Quando parlavi di curvatura della figura di Moro, la lettura che fa Paolo VI del che non è il Papa, no? Perché tu dici Paolo VI. Scusami, certamente. È uno che si chiama Sesto di cognome. Ed è il leader del gruppo ufologico torinese, che però ha un nome papale, e che anche qui è un riferimento diagonale, vediamo se puoi nominarlo come si chiama davvero oppure no. No, lo lasciamo all'indagine di chi legge. Il Guarzelone viene raccontato come una montagna che curva i racconti, per cui sono vere o no le vicende che vengono raccontate? Forse non è nemmeno la dicotomia più interessante da analizzare, il punto è capire in che modo una montagna può curvare le narrazioni. Per scrivere questi capitoli è stata molto utile il tuo incontro con gli ufologi torinesi. Beh, certo, con Fiorino in primis, che c'era già citato nel mio libro sulla storia del movimento Notav, un viaggio che non promettiamo breve, e poi anche con gli altri che abbiamo incontrato, con Grassino, con Cerrato, con Giorgi, e così. No, sicuramente. E il Musinè, io prima di cominciare a interessarmi alla lotta Notav, in realtà del Musinè sapevo pochissimo, a stento che esisteva. E cominciando, insomma, nel decennio scorso a frequentare la Valsusa e a seguire la lotta Notav e a scriverne fino a produrne una vera e propria storia, almeno quella dei primi 25 anni di lotta, mi sono imbattuto nel Musinè e ho scoperto che era avviluppato, proprio avvolto di tante storie strane, di leggende, anche di bufale, chiaramente, di burle, di finte incisioni rupestre preistoriche, letture forzate di elementi reali e immissione di veri e propri falsi all'interno del racconto del monte. Non avevo mai letto niente di Judith Adembeck, no, per dire, non sapevo di queste cose. Pian piano sono andato a vedere, ho scoperto che c'era un po' lo zampino di Colosimo anche lì, che io ignoravo, e poi nel fare il brainstorming assieme agli altri Wuming su appunto dove ambientare il grosso dell'azione di UFO 78, quando è stato proposto di inventare un angolo di Lunigiana, no? Perché il libro si svolge in Lunigiana, ma in una parte di Lunigiana immaginata da noi, di cui abbiamo anche disegnato la mappa per poterci orientare. Cioè, già la Lunigiana è una terra di confine, è una terra strana, di frontiera, cangiante, no? Perché è un po' Emilia, un po' Toscana, un po' Liguria, no? Ed è stata esposta a influenze diverse, è una terra appunto di presunti misteri, anche lì, che è stata anche oggetto di narrazioni paleoastronautiche, no? Perché si dice che le statue stele della Lunigiana sono in realtà rappresentazioni di antichi astronauti, insomma tutte queste cose qua. Quando è stato proposto di ambientarle in Lunigiana e si è deciso di proprio creare un'intera porzione di territorio, lì è stato molto utile il Musimè, perché il Quarzerone a quel punto si è deciso di modellarlo come reputazione, non come orogenesi, non come aspetto geologico, perché è pieno di grotte che nel Musimè non ci sono, è più grosso, insomma di descriverne la reputazione un po' come viene descritta quella del Musimè, compreso i bufale e bufalari, no? E quindi, e tra l'altro è stato molto utile un aneddoto in particolare, una cosa che è successa sul Musimè di un tizio che credo proprio nel 78, correggetemi se sbaglio, perché adesso poi si sono stratificate tante cose e riferimenti, fu aggredito e picchiato da alieni sul Musimè, e poi questa cosa è stata spiegata in altri modi, ma noi ci siamo ispirati a quell'episodio lì per un momento topico, diciamo, di UFO 78. E c'è molto Musimè, quindi c'è la Valsusa, perché Zanca ha fatto il partigiano in Valsusa, ha partecipato alla battaglia di Balmafol. E c'è molto a Torino, perché Torino non poteva non esserci, perché Torino è, anche lì sembra uno stereotipo, ma è vero, è la città dove c'è più interesse per il mistero. Era vero allora ed è vero ancora oggi. C'è veramente un tale sostrato di curiosità e interesse per il mistero come quello che ho trovato qui a Torino nella frequentazione pluriennale che ne ho fatto, non l'ho mai visto da nessun'altra parte, veramente da nessun'altra parte, che sia l'interesse per la magia, che sia l'interesse per gli UFO, che sia l'interesse per il paranormale, che sia l'interesse per l'esoterismo e l'occultismo, che è comunque è qua, cioè qui. Per il satanismo. C'è una delle riunioni che si svolge in Corso Moncalieri, dove il Pruttore e Lucentini ambientano la seduta diabolica, citofonare Travetti, tra il camotto sgonfio e il tavolo da ping pong, dove viene allestito un altare nero dove viene l'amplesso demoniaco. E poi c'è la posta di Via Fieri, che è un luogo anche lì mitico, realmente tale, dove si recuperavano i giornali ufologici. Sì, lì attribuiamo a questo sodalizio ufologico immaginario, il Grucat, una cosa che in realtà ha cominciato a fare il CISU, cioè il sodalizio vero. Insomma, qui mi soffermerei un attimo sul rapporto tra Grucat e CISU, no? Perché allora, il Grucat non è il CISU, ok? Perché altrimenti sembra che noi prima siamo andati dal CISU, abbiamo preso materiali, ci hanno fatto raccontare le cose, eccetera, dopo li abbiamo presi per i fondelli. Non è così, perché il Grucat non è il CISU. Ecco, è una torsione di insomma, un'anima che l'ufologia aveva allora e ha, e che noi abbiamo portato, insomma, anche a delle conseguenze un po' caricaturali, ma però non, cioè, in realtà sono personaggi estremamente attivi, interessanti e che spingono la storia, no? Con tutte le loro fisime, con tutte le loro fissazioni, e con tutto, cioè comunque a noi vogliamo bene al Grucat, Mozart, cioè comunque sono dei personaggi che abbiamo, per cui proviamo un grande affetto, ecco, e soprattutto per Berto Musinè, quello soprannominato Berto Musinè, che è un personaggio anche tenero, no? Che ad un certo punto, insomma, prende una traiettoria particolare che lo mostra, insomma, anche un po' spasimante, impacciato e così. A noi questa cosa è piaciuta. Abbiamo descritto dei nerd, in buona sostanza. Non c'è nulla di male a essere nerd. Ecco, questo vorrei dire. Ciascuno di noi dentro ha un nerd, e noi due in particolare alla grande, e bisogna anche lì essere degli abbraccia nerd, ecco, però al di là, ecco. Ho trovato fantastico il capitolo del treno che utilizzate per descrivere quante sono le possibili ufologie, cioè sì. Per esempio chi si imbatte nel femminismo è convinto che il femminismo sia un movimento, poi appena si inizia a parlare con una persona che scopre che di femminismi ne esistono così tanti che è difficile rifiutare il femminismo, perché ciascuno ne rifiuta quella tale incarnazione, ce ne sono di orrende, sì. Ce ne sono di sublimi. Nell'ufologia è la stessa cosa. E anche qui è una notizia, perché in che modo si può essere ufologi in 10 modi diversi? E ci sono le 10 diverse teorie, quella parafisica, quella spiritistica, quella razionalista, eccetera. Transdimensionale. E la stessa cosa avviene sorprendentemente con la musica, perché c'è tantissima musica nel romanzo. Io che poi ne so così poco, a un certo punto iniziano a elencare una serie di gruppi e faccio l'esperienza che fa uno dei personaggi del pendolo di Foucault. Quando gli viene sottoposta una lista di gruppi esoterici dentro cui ha messo un nome falso per metterlo alla prova, per dire vediamo se questo è uno che la conta e riconoscerà questo tress che è inventato in mezzo a questa lista, e costui, il conte del Ghiel, ce la fa, lo scopre e sgama il nome falso. Ora, se i Wumingan, no, in questa lista di gruppi musicali attivi nel 78 hanno inserito un gruppo falso, io non me ne sono accorto, perché quelli non ho... fascisti ce ne sono di falsi, quelli di fascisti, quei gruppi rock neofascisti che elenchiamo sono tutti immaginari e i loro nomi sono ispirati a nomi reali bruttissimi di band neofasciste attive all'epoca, tipo la nuova vecchia guardia Ah, e poi c'è un cantautore fascista che si chiama Carmine Burani. Gli altri sono tutti veri, tranne uno che però non posso rivelare. E poi online ci sono delle cover di pezzi che non esistevano, adesso esistono, quindi retroattivamente più o meno ho dovuto... Ecco. Lo dici tu che non esistevano. No, hai ragione, no, che è una cover di un pezzo retrodatato anacronisticamente, mettiamola così. Sì, sì. E da qualche parte esistevano, perché sennò non si sarebbe potuta fare la cover nella parola. Non sono cover, esatto. Sono belli questi giochi. No, e poi vabbè, l'Einaudi ha messo online la playlist di quasi tutte le canzoni menzionate nel romanzo. Alcune hanno proprio un'importanza diegetica, cioè proprio dentro la storia hanno proprio un'importanza a livello di trama. Proprio. E altre sono semplicemente evocate, altre sono già colonna sonora del romanzo, perché ad esempio il primo capitolo del romanzo ha una colonna sonora dichiarata, che è un pezzo dei Popol Vuh, In den Garten Pharaos, nel giardino del faraone, e quindi la playlist comincia con In den Garten Pharaos. Ed è lunga, sono ore e ore, anche perché, vabbè, siccome stiamo parlando soprattutto della scena rock tedesca anni 70, quella che poi, con una parola che io detesto, è stata chiamata kraut rock, no? Il rock dei crauti, però in inglese kraut vuol dire crucco, anche, quindi il rock dei crucchi. È un'espressione orrenda per la scena musicale che negli anni 70 era la più interessante del mondo. Okay. E Jimmy è un patito di quella scena rock tedesca lì, però questo cosa implica? Siccome alcuni pezzi di quei dischi durano 20 minuti, la playlist è lunghissima, ecco. E quindi per ascoltarla tutta, insomma, non c'è I Marsian di Gipo Farassino, che poi a posteriori Filo Sottile ci ha suggerito, ascoltatela perché è una bomba, è una canzone di un tizio che ha ucciso la moglie perché gli hanno detto gli alieni, che risuona in qualche modo anche con l'idea che gli UFO siano un rifugio dove il maschio occidentale in crisi ripone o utilizza per giustificare il suo sessismo. E poi però ovviamente la canzone ha un colpo di scena finale, quello che canta è In via Giulio, che poi se uno indaga era il manicomio di Torino, per cui è la storia di un matto, ed è un triangolo interessante tra la follia, l'uomo e il femminicidio e i marziani ovviamente. E poi è interessante perché questa cosa del sentire le voci, no? Ho ucciso, una volta si diceva ho ucciso perché una voce mi ha detto di farlo, in quel caso lì la voce è attribuita, perché siamo negli anni 70, è attribuita all'alieno, e quindi in realtà un sacco di cose vengono ritematizzate in chiave ufologica, spaziale e quant'altro, ma fino a, quindi le apparizioni mariane al sentire le voci, in quel caso lì era la voce dell'alieno che gli ha detto di ammazzare la moglie. Ci sono domande in sala? Io ho esaurito i collegamenti torinesi con il romanzo, ma le domande naturalmente non sono esauriti perché ce ne sono ancora, però sì. I miei, cioè i tuoi, quelli sì, che sì, avevo preparato, ma tu... Tutto quello che resta, magari qualcuna o qualcuno in sala è venuta o qualche curiosità, e diciamo che può essere il momento di approfittare di Vooming 1 che è qui. Avrò potuto mettere Sangon Blues anche di Gigo Farassino, un pezzo della Madonna, in qualche modo andare infilato. Qualcuno che rompe il ghiaccio anche con una cazzata, basta che... Avevi accennato Moravia. Sì, ecco. Allora, ecco, io non so se voi che conoscete molto bene quella storia siete d'accordo con questa interpretazione. Secondo noi ci siamo fatti l'idea che Moravia volesse fare uno scherzo. Siete d'accordo? Perché eri in macchina con Cagnetta. Allora, e qualche... Cagnetta. Ecco, allora, perché ad un certo punto, se voi guardate Esterno Notte di Bellocchio, nella prima puntata, in casa di Aldo Moro, si sente la radio e viene data una notizia. Lo scrittore Alberto Moravia riferisce di aver visto un UFO, che è una notizia vera, perché lui lo riferì davvero. E dopodiché, questo avviene pochissimi giorni prima del sequestro Moro, dopodiché di questa cosa che Moravia ha visto l'UFO non si parla più. Di Moravia si parla perché prende una posizione molto coraggiosa ed eterodossa nei giorni del sequestro Moro, contro la linea della fermezza, del rigore, assieme a Sciascia e a pochi altri, no? Poi siamo andati a rileggerci quell'articolo e abbiamo visto che lui riferiva, era dalle parti di Grosseto, era in auto e ad un certo punto ha visto questo UFO, era in macchina con un sociologo che si chiamava Franco Cagnetta. Qualche mese dopo Franco Cagnetta ha effettivamente messo in campo una burla, una serie di burle concatenate per far credere ad avvistamenti di massa di UFO, e stiamo già nell'estate, quindi con Moro in realtà già, insomma, a Jesolo, praticamente con l'uso di lanterne cinesi, con l'espediente di far pubblicare lettere false di lettori ai giornali locali, con tutta una serie di altre mosse, riesce a creare una sorta di isteria di massa sull'UFO che dura diversi giorni finché non rivendica di essere stato lui e che era un esperimento che lui faceva proprio da sociologo sui mezzi di comunicazione di massa. Ora, il fatto che questo scherzo sia stato orchestrato da Cagnetta e Cagnetta fosse in macchina con Moravia mesi prima, quando Moravia afferma di aver visto l'UFO, noi ci siamo fatti questa idea qua, che chiaramente è una mera congettura, che lui fosse d'accordo con Cagnetta per fare da testimone al famoso dello scherzo, appunto sugli UFO, che Cagnetta aveva già in canna e stava per sparare, ma poi c'è stato il sequestro Moro, tutto è stato deviato, appunto tutto è stato curvato, e quindi vabbè, non è il momento di fare questo scherzo. Dopodiché Cagnetta ha ripreso in mano quest'idea e lo scherzo l'ha fatto senza Moravia durante l'estate. Secondo voi è sensata questa cosa? È sensata, sì, però bisogna tenere conto di un fattore che non conosce quasi nessuno. Moravia, nell'ondata famosa del 54 in Italia, fu testimone di un avvistamento UFO. Anche nel 54. Ed è identico la descrizione al falso avvistamento del 78. Quindi sei ispirato a quello? Sei ispirato, c'è una scheda segnaletica conservata in un vecchio archivio degli anni 50 del pittore futurista Tagliato. Michaelis, che il cui archivio è stato conservato, una delle schede è proprio autografa, firmata da Moravia con tanto di lettera da compagnia. Allora può darsi che lui chiacchierando con Cagnetta... E la descrizione è molto simile, molto in simile. Macchina, con l'oggetto... In dove? Non a Grosseto? No, a Roma. A Roma. Allora può darsi che chiacchierando con Cagnetta lui abbia detto, ma io nel 54 non l'ho visto, e ho detto, bene, ottimo, allora proviamo a... Sì, c'è quell'articolo sull'Espresso del 70. Sì, la conclusione dell'Espresso. Comunque, insomma, ci siamo fatti l'idea che Moravia fosse complice di Cagnetta già in un tentativo di burla. Sì, che però poi non è stato... No, perché no, è stato rapito Moro tipo 4-5 giorni dopo e quindi dopo l'atmosfera non consentiva più di fare una cosa del genere. Vedi, vedi, dai, dai. Voglio la tessera onoraria del CISU, per tutti e tre i Muminga. Riferiremo. Ok. Ascoltando quello che, di cui parlavate, mi è venuto automatico un collegamento con il penultimo libro che è uscito vostro e che è l'ultimo che ho letto, ovvero Fu come l'ombra. Sì. E, la Q di complotto. Sì, sì, sì, sì. Trovo che ci sia in entrambi un dubbio molto forte sul ragionare nel modo in cui noi vediamo la vita dell'immaginazione, delle letture non convenzionali della realtà che si vedeva nella popolazione che esce sui giornali, eccetera, eccetera. Negli anni 70 lo spiritismo, gli extraterrestri nella preistoria, la parapsicologia. Dopo il 2000, QAnon con tutti i suoi derivati e i suoi progressi. La cosa che mi sembra strana è la raffrontare. Mi chiedo se possa esistere se voi avete mai pensato a una ragione per cui una parte che è comunque così importante dell'immaginazione o della lettura della realtà, come si voglia chiamare, abbia preso polarità così diverse nel corso dei decenni. Perché negli anni 70 sembra quasi che sia qualcosa che venga visto come una liberazione, ma nello stesso tempo che viene messo nei giornali, tant'è che si parla appunto di Moravia che vede alieni, della sensibilità spiritica di Prodi che viene presa sul serio, mentre adesso a parte alcune frange politiche non si tende a non prendere sul serio più o meno e tutto quanto. Per cui trovo singolare questa differenza sostanziale nel modo in cui noi stessi vediamo quel modo di allora e questo di adesso. Cioè, quasi come se si fosse incancrenita una parte dell'immaginazione collettiva o se fosse stata dirottata verso alcuni. Sì, allora se noi prendiamo alcune fantasie di complotto che sono in auge oggi e ne cerchiamo gli antesignani negli anni 70, appunto vediamo che c'è una differenza tra come una storia veniva raccontata allora e come viene raccontata adesso. Adesso è molto più cupa, è molto più paranoica, è oscura, e vede ovunque trame nell'ombra. Questo vale per qualunque tema, no? Mentre all'epoca, appunto, come dicevi tu, era qualcosa visto come liberatorio, in qualche modo anche l'interesse per il paranormale, l'interesse per gli alieni e queste cose qua avevano comunque una dimensione figlia di quel tempo, una dimensione anche di slancio utopico, di immaginare un altrove, c'era un'apertura. Adesso i corrispettivi di tutte quelle narrazioni lì invece sono chiusi, sono fobici, sono veramente molto molto tetri, cupi. Ok, anche le fantasie di complotto sugli UFO di oggi sono molto più tetre e cupe di quelle di una volta, anche perché si sono ibridate con QAnon, con tutte queste cose qua, perché nel frattempo è successo questo fenomeno di cui parlo nella Q di complotto, che è la singolarità cospirazionista. Tutte le fantasie di complotto hanno cominciato a convergere e a creare una mega e meta narrazione che tiene dentro tutto: Kennedy, gli UFO, i satanisti pedofili, le scie chimiche, qualunque cosa, il Covid come invenzione e tutte queste cose. Sono ad un certo punto negli ultimi anni, grazie alla rete, hanno cominciato a fondersi e ibridarsi tra loro, e la tonalità risultante è comunque la più cupa, cioè non è che sono prevalsi gli elementi più, diciamo così, anche come si può dire, fantasiosi Balzani, il meraviglioso, no, non c'è il meraviglioso, ce n'è una versione veramente molto molto molto oscura, c'è quasi l'antimateria del meraviglioso, tutto è diventato più cupo. Ma in realtà ogni narrazione, anche non cospirazionista, è diventata meno speranzosa, più disperata, più cupa, no? Anche, non lo so, il mobilitarsi contro il cambiamento climatico, no? È una mobilitazione che nasce dalla disperazione. Basta vedere i nomi dei movimenti che hanno fondato i giovani oggi. Ultima generazione, come dire, che ha un doppio senso. Siamo gli ultimi in tempo per fare qualcosa prima della catastrofe, e anche siamo gli ultimi, ok? Gli ultimi. Un sacco di ragazzi oggi dicono: io figli non ne voglio fare, perché questo è un mondo dove io figli non ne voglio. Quindi ultima generazione, anche quella risonanza terribile lì, ed è il nome di un movimento attivistico che interviene sulle questioni climatiche. Ma se ci pensate, anche Extinction Rebellion è un nome terribile, no? Ribellarsi all'estinzione. In realtà tutto oggi è meno speranzoso e più cupo che negli anni 70, perché c'è stata una sconfitta epocale dei movimenti di emancipazione e di liberazione. C'è stato il trionfo del There is no alternative neoliberale, che ha alla fine sclerotizzato, impoverito e incupito tutto, e quindi anche l'interesse per il mistero è diventato più cupo, molto più cupo, e questo però ha aperto un viatico enorme a fenomeni allucinanti come QAnon. Oggi, se una persona è interessata al mistero, molto spesso imbocca quella che viene chiamata the pipeline, la conduttura che parte dal cosiddetto rabbit hole, la buca del coniglio, e pian piano, di video strano in video strano, da un mistero all'altro, va ad approdare a cose come QAnon, a fantasie di complotto tetre e reazionarie, ultra reazionarie, no? Ecco, ma questo è proprio un tratto dell'epoca, è figlio di una sconfitta storica, questo. Il nostro libro è anche un tentativo di ritornare a quando l'interesse per il mistero era un'altra cosa, e anche quelli che avevano magari delle fantasie di complotto con l'UFO, comunque erano di fantasie di complotto, come posso dire, più innocenti rispetto a quelle di oggi, che nel frattempo si sono incancrenite. Ecco, come dicevi tu, è giustissima la metafora della cancrena. Però bisogna ribellarsi a questo, come bisogna ribellarsi all'estinzione, bisogna anche ribellarsi a questo e rivendicare il fatto che comunque una dimensione di interesse per il mistero comunque va coltivata, perché l'essere umano ha anche bisogno di incanto, ha bisogno di meraviglia, ha bisogno anche di ogni tanto sapere che certe domande e risposte non ne hanno e quant'altro, perché la vita senza questo ha meno senso. Ho fatto un comizio. Potrebbe anche essere che dal punto di vista della narrazione collettiva, culturale, siamo influenzati da una visione distopica del futuro, no? Cioè, riguardo a quello che si racconta nella fantascienza, la narrazione è sostanzialmente quella sull'oltreoceano, che è tanto concentrato su una visione distopica, sì, che influenza un po' tutta la... Sì. E poi spesso è un futuro molto vicino, è un presente allungato. Se uno pensa agli episodi di Dark Mirror, è roba che succede tra 2 anni, per dire, non è neanche più il futuro, è un presente allungato, è un prolungare tendenze già in atto per vedere fin dove possono portarci in un futuro immediato. E la fantascienza, non a caso, ha cominciato a perdere la nozione di futuro negli anni 80. No, per dire, la fantascienza dell'età d'oro cosiddetta immaginava futuri lontanissimi. non mi ricordo esattamente quando si svolge la trilogia della fondazione di Asimov, ma penso tra 130.000 anni, una cosa del genere. Oggi nessuno scriverebbe più una cosa del genere. Se vuoi andare così lontano devi proprio andare in un altro mondo e scrivere fantasy, no? Per dire Guerre Stellari, che in realtà è più fantasy che fantascienza, non ti dicono dove sei, cioè collocato a livello cronologico, potrebbe essere cose che sono successe milioni di anni fa in un'altra galassia, come tra milioni di anni, eccetera, no? E invece nella fantascienza vera e propria il futuro si è pian piano perso, cioè proprio perché anche la fantascienza subisce questa sconfitta epocale che è stata data dal trionfo incontrastato della narrazione neoliberale, che è tutta schiacciata sul presente, sull'eterno presente, e non concepisce più il futuro. Il futuro al massimo è i listini di borsa, domani cosa mi diranno, domani, capito, neanche domani, ormai tra un'ora, no? E l'orizzonte si è contratto e tutta la produzione culturale, tutto l'immaginario lo ha subito questo, anche l'immaginario critico, perché tu rispondi con la distopia, quindi col cautionary tale, no? Per dire guardate che andando avanti così andiamo a finire male. Però non si vive solo di questo, non si vive solo di allarmi distopici, si vive anche di immaginare nuovi mondi possibili. Per questo noi citiamo Ursula K. Le Guin, no? Ecco, abbiamo bisogno di più libri come I Reietti dell'altro pianeta, abbiamo bisogno di nuovo di slancio utopico anche nelle narrazioni, perché non si vive di soli allarmi distopici, no, e non, come non si vive solo di nomi come Ultima Generazione, perché è una cosa che ci mette addosso un'ipoteca piombata. E quindi bisogna tornare a saper immaginare altri mondi. Ci siamo ripetuti ad nauseam questo motto, che alcuni attribuiscono a Žižek, alcuni a Fischer, alcuni a Jameson, che è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Dobbiamo tornare a immaginare la fine del capitalismo. Altro che... Poi non so neanche chi l'ha detta quella frase lì, perché ogni volta tu l'attribuisci a Žižek, tu nel libro su Lourdes l'attribuisci a Žižek, altri l'ho visto attribuire a Jameson e altri a Fischer. Vabbè, comunque funzionava. Altre domande? Ufologi presenti, qualche polemica, non so. No, qua. Ma non è la narrazione dell'ineluttabile quella che è in atto in questo momento? Beh, sì. Dire, cioè, potete morire, mentre magari poter incontrare l'UFO sì. Era anche una possibilità di... Sì, perché non c'era ancora appunto questa ipoteca del non c'è alternativa, no? E quindi potevi immaginare altro e altrove e con più libertà. Poi la frase non c'è alternativa, quindi invece si sa chi l'ha detta, è la Thatcher. There is no alternative alla società, del mercato e cose del genere. Ed è è un'ideologia che è diventata onnipresente, onnipervasiva, avviluppante. Noi siamo sempre vissuti nel capitalismo, no? Cioè, perché chiunque di noi è nato nel capitalismo, è cresciuto nel capitalismo, però in fasi precedenti del capitalismo c'erano ancora delle sacche vuote, o comunque c'erano ancora dei margini, degli interstizi, delle intercapedini, delle forze alternative, delle minacce che il potere, di cui il potere poteva tener conto. Ok, se non fai questa cosa qua si fa la rivoluzione, no? Il riformismo non sarebbe stato possibile senza la minaccia della rivoluzione, le riforme sociali degli anni 70 non sarebbero stati possibili se non ci fosse stato tutto quell'antagonismo sociale dispiegato di cui la classe dirigente doveva tener conto, quindi quelle riforme le doveva fare per forza, altrimenti esplodeva il paese, no? Quindi c'erano le alternative. Da quando è passata sta cosa di there is no alternative e il dominio neoliberista è diventato proprio compiuto e ha sussunto tutta la società e tutto l'immaginario, questa cosa è diventata più difficile. Non è impossibile, ma è più difficile. E poi soprattutto non è solo di poter immaginare un mondo diverso, ma anche di farlo insieme. E quello è fondamentale, perché questi sforzi devono essere collettivi, perché uno da solo può anche avere una visione di una società diversa, ma rimane ineffettuale se rimane la sua. bisogna, come noi insistiamo tanto sulle narrazioni collettive, sui progetti collettivi, per quello, perché comunque un nostro motto, l'altro è, abbiamo detto, noi abbiamo diversi motti, no? Uno era trasparenti verso i lettori, opachi verso i media, l'altro era raccontare una storia con ogni mezzo necessario, ma secondo noi il più importante è questo, che è salvarsi il culo il più collettivamente possibile. Ti volevo chiedere una cosa. Nella redazione di UFO 78 hanno influito le teorie dei Men in Red, il libro Quel Popolo, UFO Ciclismo, del Corretto, tutto questo gruppo? Sì, allora quelli erano nostri soldati. È poco conosciuto. Certo, è poco conosciuto. Alla fine del Luther Blissett Project, verso la fine del quinquennio del progetto Luther Blissett, si sviluppò una sorta di sottocorrente, di variante ufologica, che espresse una rivista che veniva pubblicata a Roma, che si chiamava MIR, Men in Red, e poi anche pubblicò un libro per le edizioni Castelvecchi che si chiamava Ufologia Radicale. Le posizioni che venivano espresse sugli UFO erano molto simili a quelle del trotskista Juan Posadas, quindi un tentativo di lettura marxista dell'ufologia e del contattismo, un tentativo di lettura rivoluzionaria, nel caso, te posso dire tranquillamente, nel caso dei Men in Red era anche insomma in realtà un'operazione più letteraria che non letterale, ma letteraria, non andava presa alla lettera, no? Un po' come certe cose che noi abbiamo scritto negli ultimi anni di Colosimo, sono chiaramente operazioni letterarie, no? E perché vanno a trovare un nucleo letterario in Colosimo stesso, che secondo noi le operazioni di Colosimo avevano molto di letterario, e quindi ci rifiutiamo di prendere alla lettera molte delle cose che scrive, ma le vediamo come operazioni letterarie, e loro facevano la stessa cosa con Posadas, solo che è un po' più difficile, perché Posadas effettivamente qualche problema lui ce l'aveva. Però in quel mondo, in quel momento del blissettismo italiano, in cui parte questa fascinazione per gli UFO, gli alieni e quant'altro, che viene coniato il termine ufofilia. È lì che viene coniato. Noi lo prendiamo, lo risemantizziamo e lo spostiamo appunto anacronisticamente al 1978, come diceva prima Mariano. E poi teniamo conto anche di Posadas, perché chiaramente mettiamo in campo un personaggio che si chiama Romulo Casella. Romulo era il secondo nome di Posadas, Juan Romulo Posadas. Mettiamo che è brasiliano invece che argentino, ma in buona sostanza le cose che dice e che vengono attribuite nel romanzo a Casella sono esattamente le stesse che diceva Posadas. Posadas diceva: se queste astronavi che arrivano sulla Terra vengono da altre galassie, vuol dire che hanno delle tecnologie avanzatissime, e se hanno delle tecnologie avanzatissime vuol dire che hanno un'economia pianificata, quindi vuol dire che da loro c'è il socialismo, diceva. Se da loro c'è il socialismo vuol dire che noi, che abbiamo ancora il capitalismo, da loro abbiamo tutto da imparare, e quindi dobbiamo auspicarci che vengano. Anzi, a un certo punto Posada sembra proprio che si auspicasse l'invasione, cioè, perché appunto questi sono a un livello molto superiore a noi e quindi non possono che aiutarci a fare il comunismo sul pianeta. Un'altra cosa che diceva Posadas, che noi gli attribuiamo e che non ha niente a che fare con gli UFO, ma che però è ricordato anche per quello, che lui si auspicava l'apocalisse nucleare sul pianeta, perché diceva che poi i sopravvissuti avrebbero fatto il socialismo. È, diciamo, una teoria del pochi ma buoni. Era un personaggio un po' problematico. Io premetto che sono, penso, la persona più giovane in questa sala, quindi potrei dire delle passioni. Ma secondo lei la fantascienza mirata verso un futuro molto più lontano, quindi quello che dovrebbe, da quello che ho capito io, ritornare per dare più escapismo, dovrebbe sempre essere politico? Perché la fantascienza contemporanea, che è quella del presente, è molto politica. Sì. E quella che degli anni 70, quella che dovrebbe prendere esempio da quella degli anni 70, quindi quella pianta del futuro, dovrebbe sempre essere politica o dovrebbe abbandonare un po'? No, beh, Ursula K. Le Guin, che ho citato, è forse l'autrice di fantascienza più politica che ci sia mai stata, proprio militante anarchica. E tutto quanto, non si tratta tanto di gittata, no? di per forza ambientarla in un futuro remotissimo, si tratta di immaginare un'altra società, o comunque di immaginare un conflitto contro questa che non sia solo nella chiave della distopia, perché è molto politica la fantascienza di adesso, ma è troppo frequentemente solo distopica. E le distopie hanno una carica critica che può arrivare solo fino a un certo punto, perché si basano solo sull'evidenziare quanto sono negative tendenze che sono già in atto e quanto peggiore potrebbe diventare la situazione. Quindi è un avviso, no? Attenzione, che va a finire così. E il rischio è quello di stare sempre solo in modalità Cassandra. Invece, ad esempio, in Ursula K. Le Guin c'è anche la narrazione di grandi sforzi collettivi per costruire altro, no? E non è l'unica, no? E quindi probabilmente abbiamo bisogno di questo, ma non in una prospettiva né escapista né edificante. Cioè, possono essere anche storie che comunque mantengono una carica anche, insomma, perturbante e molto forte, ma che però fanno vedere che ci sono tante forze in gioco, non c'è solo la situazione attuale che va sempre più a ramengo. Ecco, il mio problema con, diciamo, la dittatura della distopia che c'è stata negli ultimi anni è quella lì, che alla fine può diventare semplicemente un abbracciare un fatalismo, perché uno dice, vabbè, se siamo messi così male, io cosa posso fare, no? E quello è un rischio molto forte. E l'altro, che quello in fondo diventa semplicemente il controcanto che il capitalismo fa di se stesso, cioè, nel senso, sì, io continuo a fare quello che voglio, poi vabbè, ci sono queste distopie che dicono che sono cattivo, io da queste distopie tra l'altro guadagno, no? Perché appunto Netflix è piena di distopie e noi guardiamo quelle distopie e loro fanno un sacco di soldi, e, insomma, e quindi il rischio è che si rimanga impantanati in questo. Invece bisognerebbe trovare delle vie di fuga per poter ritornare a narrazioni un po' più ricche, ecco, che siano meno mono approccio, ecco. Io ho visto tanto evangelisti anche, ad esempio, al romanzo, nel senso che ho visto tanto quell'approccio appunto diverso rispetto a quello che era la fantascienza apocalittica dell'ultimo momento, eccetera. È una mia idea sbagliata o... No, beh, è possibilissimo. Noi non abbiamo pensato esplicitamente a Valerio mentre scrivevamo UFO 78, però abbiamo avuto una lunga consuetudine con lui e con i suoi libri, ne abbiamo scritto, lui ha scritto di noi, abbiamo condiviso uno stesso ambiente culturale per anni, quindi no, ci sta, è assolutamente plausibile. Basta? Vabbè, allora... Grazie! Thank you.